9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. E credevate che la levavo da questo inizio settimana dopo la manovra del governo Monti? No, questa è la settimana decisiva. Vediamo i mercati oggi cosa dicono della manovra del governo Monti e vediamo soprattutto cosa decide l'Europa in questa settimana. Quindi almeno per tutta questa settimana i Dors ci tengono ancora compagnia e continuo a dire a chi pensa che sia un eccesso di pessimismo, mi pare infondato, mi pare che ancora la consapevolezza in alcuni, molti, spero non nella maggioranza, di quello che rischiamo tutti quanti non ci sia. E cominciamo oggi a vedere intanto la manovra varata ieri dal governo di emergenza del professor Mario Monti. È una manovra che, per chi fosse interessato, io ho commentato ieri sera stesso sul messaggero trovate il commento, io lo faccio in sintesi perché ovviamente adesso è più facile aver capito ciò che ieri dovevo commentare sul tamburo. E poi sentiremo come la pensate voi, quindi per oggi sospendiamo la rassegna stampa europea, per così dire, perché si formerà in mattinata e durante il giorno il giudizio europeo sulla manovra italiana e vedremo cosa ne pensano i mercati. Io penso che per i mercati dovrebbe essere abbastanza difficile respingerla come se fosse una specie di rinvio o un aggiramento del problema, e questo è il mio primo punto. Il professor Monti secondo me ha fatto bene, ripeto, ha fatto bene a ripetere che la pressione europea è stata molto forte e che l'Italia non dovrà più essere nella condizione di essere additata come il detonatore dell'euro. Questa è la responsabilità del governo uscente, precedente, e io continuo a ribattere su questo sapendo che molti di voi su questo mi accusano e pensano che si tratti invece di aver cambiato bandiera. Io di bandiera non ne ho, se non quello che vedo e se è adeguato a quello che serve al paese. Detto questo, vi dico subito i due punti di cui sono meno convinto della manovra di ieri, che complessivamente però apprezzo. I due punti che mi sembrano elusi e non convincenti di questa manovra che commentiamo oggi, San Dalmazio, e San Dalmazio porta tasse da iperspazio, come ancora una volta si fa nel nostro paese. I due punti su cui io non sono convinto riguardano: uno, la crescita; due, l'abbattimento del debito pubblico. E se permettete, comincio da questo secondo. La manovra complessivamente dà una nuova, pesante stretta fiscale, anche se non è fatta per 4/5 di tasse come quella delle manovre estive Tremonti di luglio e di agosto, fatta di 30 miliardi lordi in cui la diminuzione della spesa vale per un po' più del 50%, ma la botta fiscale c'è tutta ed è una nuova stretta complessiva, ne parleremo tra poco, ma con questa strada in un paese che si avvia con certezza alla recessione almeno nei primi due trimestri del 2012, e poi se complessivamente il 2012 sarà di recessione dipenderà dal fatto che il compromesso europeo sia così buono da rilanciare l'euroarea nella seconda parte dell'anno. Io penso che puntare solo sulla stretta fiscale, classica impostazione della ragioneria generale, e infatti il ministro è rimasto Grilli come se fosse il predecessore, in un paese che va in recessione sia un errore credere che l'abbattimento del debito pubblico si fa solo con gli avanzi primari iperrecessivi. Ci voleva, e continuo a chiederlo, un abbattimento del debito pubblico significativo con dismissioni pubbliche dell'ordine di 20 punti di patrimonio immobiliare pubblico da mettere in un fondo chiuso di cui annunciare al mercato che servirà a, con le sue cessioni, ad abbattere il debito pubblico. Non capisco perché la ragioneria generale continua a dire no e si dica oggi con Grilli come prima con Tremonti al fatto che sia lo Stato a dismettere le sue cose per abbattere il debito pubblico. Questo è un limite molto forte, non credo alla via degli avanzi primari iperrecessivi per abbattere un debito di queste proporzioni. Questo punto resta totalmente inevaso ed eluso con questo governo come con il precedente. Secondo punto, la crescita, appunto. È vero che uno dei punti forti di questa manovra, a differenza del disinteresse per la crescita che contraddistingueva il precedente ministro, è uno stanziamento di un corposo numero di miliardi di euro tra 2012, 2013 e 2014 di misure a sostegno della crescita. Per esempio la deducibilità integrale dell'IRAP alle imprese per chi assume donne e giovani, con 1,5 miliardi nel 2012, 2 miliardi nel 2013 e 2014, quindi per complessivi 5 miliardi e mezzo, e agevolazioni alle fiscali e alle aziende che aumentano la la patrimonializzazione con questa super ditta che torna, e anche qui la cubatura è di 1 miliardo nel 2012, 1,5 miliardi nel 2013, 3 miliardi nel 2014, per complessivi 5,5 miliardi, quindi si tratta di 11 miliardi di 10 miliardi in 3 anni per le imprese. Le imprese da questo punto di vista ottengono quello che vogliono. Io ho dei fortissimi dubbi sulla super ditta, che in passato, introdotta da Vincenzo Visca, è stato un premio ai grandi gruppi e non un incentivo per il 99% dei piccoli e medi, che continuano a pagare 30 punti e anche di più di tax rate reale su il loro reddito lordo d'impresa. La deducibilità integrale dell'IRAP ovviamente vale per chi ha un IRES positivo, perché per chi ha un IRES negativo la deducibilità dell'IRAP fatta così sparisce. Detto questo, quello che manca, anche se tutto ciò è benedetto, è benedetta la parte del puntare sulle infrastrutture, i cantieri, le liberalizzazioni, però detto tutto questo, quello che è mancato a favore della crescita è l'incentivo a breve più efficace, cioè levare pressione fiscale da lavoro e da impresa e riequilibrare l'ordinamento fiscale con un prelievo sull'indiretto o sulla mini patrimoniale ordinaria che le imprese avevano indicato quest'estate. L'incentivo a breve più efficace per crescere di più è meno tasse al lavoro e impresa. Neanche su questo, come sulle dismissioni pubbliche, il governo ha cambiato marcia. E dopo questi due fortissimi limiti, secondo me, di questa manovra, tutto il positivo in 4 punti, secondo me, invece della manovra complessiva, che è una manovra innanzitutto seria, è seria, cioè l'ammontare, il taglio con cui si affrontano i problemi è intenzionalmente non elusivo, per evitare che i tedeschi dicano l'Italia non ha girato pagina, noi non crediamo quindi nella necessità di aprire a tutto ciò che è necessario per un compromesso che salvi l'euro. Secondo me la reazione tedesca non dovrebbe essere improntata a questo, ma dovrebbe procedere. Primo, io apprezzo i costi della politica, cioè apprezzo il fatto che le misure contro il doppio stipendio dei ministri, la decisione magari ai limiti della costituzionalità e che mi auguro le province non vogliano impugnare, che abolisce le giunte provinciali, con questo spirito forse ci siamo all'abolizione delle province entro l'anno prossimo. Le province devono capire che il tempo è maturo, sono impopolari, basta, mettiamocele alle spalle e le loro funzioni le trasferiamo a unioni di comuni o a regioni, ma per il resto leviamo questo livello. Mi sembra molto positiva la decisione di continuare a razionalizzare il perimetro pubblico, per esempio con l'INPTAB e l'EMPAS che spariscono a favore del Super INPS e anche i fondi unificati, compreso quelli delle professioni. Qui ci sarà un punto delicato, dovremo capire bene le norme di attuazione, magari anche quello dei giornalisti, però mi sembra il Super INPS una misura sostanzialmente positiva. Da questo punto di vista, che sia stato il primo punto affrontato da Monti non è solo una questione di propaganda, i costi della politica, i costi della casta, ma è il perimetro pubblico quello da diminuire. E se posso dirvi la verità, se c'è una cosa anche che ancora non mi piace, è che la riduzione della spesa sia troppo limitata. La diminuzione del perimetro dello Stato deve essere, per chi come me ha su questo giudicato il governo precedente e è rimasto deluso, deve essere molto più decisa e coraggiosa di quello che si veda da questo pur inizio, che comunque secondo me è apprezzabile. Secondo punto su cui sono positivamente convinto, la previdenza, che il governo Berlusconi non ha potuto toccare per via del veto della Lega sulle pensioni di anzianità. Complessivamente io do un giudizio buono sul fatto di annullare i trattamenti di anzianità, ve l'ho spiegato per mesi e so che molti di voi non sono d'accordo. Complessivamente per passare a 42 anni invece che a 40 di età anagrafica per gli uomini con età minima per ritirarsi significa aumentare i tetti di vecchiaia anche per gli uomini come per le donne. L'accelerazione dell'entrata in vigore della parificazione donne private e pubblico per i 65 anni al 2018, questo secondo me è anche molto positiva, invece che alla fine del decennio successivo. Quello che io avrei evitato è la carognata di elevare l'indicizzazione alle pensioni superiori a 900 euro al mese. Io avrei elevato il limite almeno a 2.000-2.500 euro, perché 900 euro al mese elevare l'indicizzazione quando si fa in recessione è un po' una carognata. Capisco che la Fornero abbia pianto, ma poteva benissimo opporsi. A quel punto, come? Coprendo il minor gettito con il minor risparmio con una ulteriore accelerazione di entrata in vigore della parificazione anziana. anzianità vecchiaia. Ritengo una furbata quella di finanziare la perequazione residua delle pensioni basse con i capitali scudati, così è contenta la sinistra, ma va benissimo, è così, questa è una cosa che capisco politicamente, ma insomma di cui forse avrei fatto anche a meno. Terzo, il ritorno dell'ICI. Qui c'è un errore che desidero segnalare a tutti voi a casa. Su qualunque giornale leggerete che c'è un aumento delle rendite catastali del 60%. No, non è vero. E questo fa capire la fretta con cui i giornalisti scrivono i loro pezzi su dettatura dei politici di turno, perché è stato il politico di turno, in questo caso il ministro Grilli, ieri a sbagliare macroscopicamente. Io apprezzo il fatto che si torni all'ICI, che non piacerà tutto il centrodestra, che su questo ci farà una battaglia di bandiera, perché averlo abolito in questa legislatura si è rivelato un lusso che non ci potevamo permettere, perché ci è costato molto più tasse altrove, e secondo, aveva una finestra temporale troppo lunga rispetto ai tempi di attuazione del 2019 del federalismo come dei decreti attuativi, e quindi i comuni erano rimasti privi di pilastro autonomo impositivo. Penso invece che tornare a dici prima casa come su seconda ha una rendita catastale che resta aumentata del 5%, come il governo precedente aveva stabilito per la seconda casa, al 5%, non al 60% come tutti i giornali vi dicono oggi. Se ci fosse un aumento a tavolino delle rendite catastali dal 50 al 60%, sarebbe un aumento del più 550% stabilito per decreto, e tutti voi dovreste scendere in piazza coi forconi, bruciare Palazzo Chigi e appendere un tiranno che facesse una cosa simile, come i giornali scrivono oggi. No, si torna al 5% di rendita catastale aumentata previsto per la seconda casa e la prima casa, ma quello che cambia, ed è un cambio bello significativo, è che il moltiplicatore di questo più 5% stabilito a tavolino non è più 100 come nel governo Berlusconi si diceva per la seconda casa, ma è 160, quindi la base imponibile dell'aumento della rendita catastale al 5% aumenta al 60%, ma non aumenta del 550% per decreto il valore della rendita in quanto tale, come tutti i giornali scrivono, ripeto, e interroghiamoci su giornalisti che fanno un errore di queste proporzioni, se volete anche sul ministro che fa un errore di queste proporzioni, ma capisco il ministro che voleva farsi bello del fatto che voleva far intendere che il prolievo sugli immobili c'è ed è pesantissimo, pesantissimo sì, ma non da rivoluzione espropriatrice come invece fosse davvero se prendessimo la lettera col più 60%. Complessivamente credo che su questo ci saranno molte proteste, però tornare a un'imposta autonoma comunale da subito che incardini l'autonomia dei comuni secondo me è una cosa sacrosanta, mi dispiace. La quarta cosa su cui sono a favore è che non si è toccata la curva dell'IRPEF, su questo secondo me ha vinto il centrodestra che ha ben protestato e ha fatto bene, perché altrimenti l'aumento generale delle imposte su tutto sarebbe stato la solita storia, prendere da tutti quelli che hanno, che è un po' quello che la ragioneria generale tende a fare e che i politici tendono troppo a seguire. Sono contrarissimo agli aumenti dei bolli e dei prelievi sui conti bancari, c'è una mini patrimoniale aggiuntiva dell'1 per 1000 sui conti in banca e io a questo sono contrario, è la classica cosa dello Stato che erode e mangia tutto, non ci volevano i professori per fare cose di questo genere. Devo dire la verità, l'aumento del prelievo su barche ed elicotteri, cose che non interessano al ceto medio, passi, perché per quello che mi riguarda non è quello il punto di fondo. La tracciabilità si è evitata, la demagogia che piace a molti anche in questa radio sui 100, 200, 300 euro e si è rimasti fermi a 1000, la considero una soglia di libertà, perché io sono in questo un incorreggibile anti luogo comune del fatto che sia la lotta e la tracciabilità, la lotta al contante, la maniera in cui facciamo cosa all'evasione fiscale. L'IVA così come è messa nel provvedimento, cioè non per riequilibrare meno prelievo sul lavoro impresa, ma ancora una volta scatta l'aumento del 2% dell'aliquota generale del 21 al 23% e del 10 al 12% nel caso in cui non si esercita la delega, cioè per i 4 miliardi a copertura che il governo precedente aveva messo in esercizio la delega su deduzione e detrazione da riordinare, e scatta a metà del 2012, messa così è per fare cassa. E se è per fare cassa non ne capisco la ratio. Anche qui non ci volevano i professori, se non per dire l'aumento dell'IVA serve a un minore, molto coraggiosamente minore peso fiscale sui redditi delle persone fisiche e delle imprese, che non c'è. Ma usare invece l'aumento dell'IVA a copertura di un marcato esercizio della delega su deduzioni e detrazioni continua a essere un ragionamento che non mi persuade per niente, perché non è sistemico, è una furberia, ed è una furberia che allarma i consumi ovviamente, perché anticiperà lo sconto di comportamento delle famiglie che già tendono a non consumare, visto che noi siamo già in stagnazione da anni e in recessione in questi mesi per quello che riguarda i consumi. Ergo, al netto delle mie due forti critiche su crescita e su debito pubblico che non scende, su invece pensioni, anche sulla stessa casa, sul fatto che non si è toccato l'IRPEF e sui costi della politica, a me sembra una manovra, una botta forte. L'Europa, vediamo come reagirà. Sentiamo, oltre a come la pensate voi, in questa prima parte della trasmissione, come la pensa uno degli interlocutori fondamentali che ha partecipato al tavolo delle imprese. Abbiamo con noi Ivan Malavasi, cioè il presidente in questa fase di Rete Imprese Italia. Sapete che è la sigla e il coordinamento nella quale i mondi del commercio e dell'artigianato hanno semplificato, per così dire, dopo tanti decenni di esistenza autonoma, con un coordinamento complessivo e generale, una vastissima fetta del mondo del commercio, dell'artigianato e del lavoro autonomo italiano. Allora, io ringrazio e do il buongiorno al presidente Ivan Malavasi. Qual è la prima opinione generale e nel merito quali sono i punti che vi convincono di più e di meno della manovra varata ieri dal governo Monti? Intanto buongiorno a lei e grazie dell'invito. Beh, insomma, il giudizio che da lei per molte parti coincide anche in quello che diamo noi. Diciamo che la manovra va fatta e va di quella dimensione. Ce l'aspetta l'Europa, gliela dobbiamo, non vogliamo diventare il detonatore, come dice il ministro Monti, del fallimento dell'euro, ma insomma forse si è anche esagerato. Non vogliamo che il costo del mantenimento dell'euro, secondo noi, è meno basso e più basso di quanto non sarebbe quello dell'uscita dell'euro. Giusto vederla così, come un meccanismo di convenienza, presidente. Esatto, sono d'accordo. Io vorrei vedere proprio, insomma, per giustificare anche che questa manovra è molto pesante e qualche ragione di iniquità ce l'ha. E poi è facile farla, mamma mia, non l'abbiamo fatta per 20 anni, abbiamo sempre nascosto la testa e forse è arrivato il momento di fare qualcosa di più. Io non credo che questa manovra contenga tutti gli elementi che servono rispetto all'equità. Devo dire che anche ieri al tavolo non sono emersi, anche per ragione di opportunità, alcune cose non sono state dette, tipo quelle dell'IRP, se c'era o se non c'era, l'ICI che incidenza aveva. Insomma, capivamo che c'era una manovra complessiva che si poneva degli obiettivi. Io penso che sul tema della crescita, sul quale lei esprime proprie preoccupazioni, non ha preso in considerazione, dove invece noi vediamo un elemento importante di rilancio un po' delle attività, va bene l'IRAP, deducibile anche se fatta così integrale, temiamo che vada solo a vantaggio delle grandi imprese, non si tocca la no tax area delle piccolissime che invece incide pesantemente. Giusto, il lavoro giusto. Proporzionale. C'è un tema che noi interessa, anche lì bisognerà vedere l'articolato vero. Però il ministro fa un'affermazione, il ministro Passera, di grande importanza: ho trovato le condizioni legislative e probabilmente anche strutturali per far ripartire una quantità rilevante di alcune decine di miliardi di euro di infrastrutture. Questa sarebbe una boccata di ossigeno sicuramente per l'economia che, come dice lei, ha intrapreso la strada della recessione. Il nodo vero, purtroppo devo convenire con lei, insomma, è si agisce molto sul prelievo, anche se meno di altre volte, ma per coprire il debito, ma non per invece abbassare il costo del lavoro, il costo del lavoro sia alle imprese che ai lavoratori. Di questo ci aspettavamo che nell'articolato di oggi, adesso siamo ancora in tempo a vedere delle correzioni, ci fosse un intervento significativo, perché così siamo chiamati tutti a pagare molto di più e l'azione all'evasione, che è uno dei rami nazionali, non si può demandare solo alla tracciabilità, pur essendo abbassato. Io non so se è strumentale o non strumentale, certo è che in questo Paese non può continuare a permettersi un'evasione che va dai 250 miliardi di euro indicativamente, questa è la stima che ne fa i nostri studi statistici, certo. Quindi insomma, nel complesso non va pesante. E anch'io penso sia, non voglio dire solo un termine pesante, però davvero molto sperequata il tema dell'indicizzazione delle pensioni. Sì. Io credo che su quello davvero servirebbe più attenzione, perché 20 euro a una pensione di 1000 euro e 20 euro a una pensione di 5000 cambia la vita forse anche quel cittadino per prendere la pasta, il pane o il latte. Anche perché nel frattempo, nella stretta generale, alcune misure tipo i 5 miliardi di tagli aggiuntivi in teoria previsti per le autonomie, compensati da un ulteriore aumento delle addizionali IRPEF e delle aliquote con partecipazione locale, delle aliquote delle imposte nazionali, significherà inevitabilmente per gli enti locali procedere ulteriormente ad addizionali, e quelle le pagano tutti, quindi la stretta fiscale è ulteriormente pesante dopo quelle di luglio e di agosto. A secondo me dire che a 900 euro di pensione non ti indicizzo, io sarei molto imbufalito. Anch'io sarei più accorto, diciamo così, non imbufalito, ma sarei molto più accorto, perché lì capisco che se nei lavoratori mediamente possono trovare dentro questa manovra qualche livello di compensazione, ritorni di IRAP che adesso non sono ancora dichiarati ma potrebbero esserci, ma anche se lì ci fossero, sicuramente sui pensionati e sui disoccupati non c'è, e questa manovra pesa, se c'è un elemento di ingiustizia secondo me sta lì dentro più che da altre parti. Io penso questo, che in 17 giorni, come ricordava ieri il professor Monti, insomma non è che si poteva chiedere miracoli. Rimane secondo me invece una grande parte, sia quello che lei ricordava del patrimonio pubblico, che concordo perfettamente, ma rispetto ai costi della politica, adesso l'indicazione sulle province si realizzerà, non si realizzerà, va bene, ma c'è un nodo che si chiama liberalizzazioni e privatizzazioni di un numero spaventoso di società in house pubbliche che bloccano il mercato, non liberano competenze e generano costi pubblici molto elevati e pochissimi vantaggi ai privati. Questo è il nodo vero, secondo me, quando parliamo dei costi della politica, oltre i due doppi stipendi, tripli incarichi, bla bla, le cose che conosciamo della casta, ma io non voglio essere in nessun modo, come dire, qualunquista. Credo che la politica abbia un ruolo strategico, se ne debba appropriare, debba diventare più sobria, debba dare l'esempio, ma detto che bisogna partire da lì, le quantità che si risparmiano lì non sono quelle che possono fare la differenza in un bilancio. Posso chiedere per Presidente un'opinione su l'IVA, che è un punto delicato ovviamente, sì, per l'organizzazione del commercio e l'artigianato? Messa così è inaccettabile. Intanto ieri non c'era nessuno, anzi sono stati ben accorti a non presentarla. Non ve ne hanno parlato nell'incontro? No, perché messa così effettivamente è a scadenza fra 9 mesi, sì. Pronta per fare un altro incasso di questo genere qua. Io credo che sia profondamente sbagliato. L'IVA è una materia delicatissima, perché incide su tutti e non tutti quelli che possono avere benefici, esatto, da eventuali azioni, esatto, di natura fiscale e previdenziale. Ci sono persone che la subiranno solo e basta, in cambio di nulla. Perché anche se ci fosse un significativo, come dire, contenimento o detrazione dentro alle aliquote IRPEF, non sarebbero certo distribuiti in modo uguale rispetto ai cittadini, che chi potrebbe averle e chi no, mentre invece la spesa la fanno tutti, e io credo che l'IVA sia una materia da usare con molta molta attenzione. E comunque secondo me non ha copertura di mancato esercizio di delega, me lo potevo aspettare dal governo precedente, per così dire, che aveva ormai dei limiti, ma che arrivino anche è loro, è una furbata per dire che non la è faccio, furbata, esattamente. E poi la faccio in maniera tale, esatto, che la gente capisce e consuma di meno, dopodiché mi tengo altra casa. No, è un brutto messaggio. Io mi auguro che non sia esercitabile, ma un brutto messaggio, perché vuol dire che non abbiamo ancora idee chiare se farlo o non farlo. Il problema dell'equità fiscale, della lotta all'evasione, all'elusione, all'abusivismo, si presenta sotto varie forme, questo paese non può più rinviarla. Se vuole riacquistare quella credibilità nelle istituzioni del paese, quindi dal governo in giù, se vogliamo riconquistare la fiducia dei cittadini, perché siamo pazienti, siamo tanto pazienti, abbiamo coordinate tante, ma oramai davvero la misura è colma e bisogna reinvertire proprio il messaggio definitivo, che si inverte soggetti che compartecipano in modo dignitoso alla salvezza di questo paese e al rilancio di questo paese. Io ringrazio il presidente Ivan Malavasi, presidente di Rete Imprese Italia, e andiamo in pubblicità. Eccoci qui tornati. I maggiori introiti delle case sono sicuramente il capitolo più pesante della stretta. Ripeto, non è l'aumento del 60% delle rendite catastali, ma l'aumento dal 100 a 160 punti del moltiplicatore di una rendita catastale che resta estesa in più 5% rispetto al valore della rendita catastale precedente. Resta il fatto che, tornando alle posizioni su prima casa e aumentando significativamente la seconda, le aliquote sono 0,4 0,7%, ampiamente aumentabili dalle autonomie, e lo Stato qua incassa 11 miliardi, quindi è una stretta molto forte, ed è il capitolo insieme all'aumento dei bolli sui conti bancari è l'aumento più forte che c'è da questo punto di vista, mentre poi i saldi aggiuntivi complessivamente maggiori sono quelli che vengono dall'intervento complessivo del contributivo pro rata, dell'aumento dei tetti di vecchiaia e dall'accelerazione fortissima della sparizione dei trattamenti di anzianità nella previdenza. Allora sentiamo come la pensate, innanzitutto Salvatore da Milano, prego Salvatore. Pronto, buongiorno Oscar. Prima di tutto, al contrario di tanti che vi danno addosso, grazie di esistere, perché lei parla molto chiaro, preciso e si capisce bene quello che stanno facendo questi nostri politici. Io sono un piccolo noleggiatore, siamo in grandissima sofferenza nel nostro settore. E questi provvedimenti sui bolli, sulla prima casa, io per esempio credo che per fine anno chiuderò. La nostra è una piccola aziendina a carattere familiare, io, mia moglie, mia figlia e mio nipote, maggioranza di donne e di giovani. Si dice tanto di partire con il miglioramento e con diciamo andare verso una crescita del PIL. Io mi chiedo, le donne e i giovani, Regione Lombardia, come tutte le altre regioni, hanno la possibilità di dare i soldi a queste aziende. Non ci si può arrivare. Può essere mai che Striscia, su 58 miliardi che c'erano stanziati dall'Unione Europea, che forse ci riprenderanno indietro, ha fatto liberare 8 miliardi. Io le dico, questi miliardi non si liberano perché ci sono in mezzo ancora purtroppo delle consulting, dove un piccolo imprenditore come me, che li ha chiamati, ho pagato 600 euro solo per avere una visita. Dopodiché, per farmi un business plan, per poter accedere a queste sovvenzioni europee che sono lì e che non si possono spendere, io avrei dovuto spendere 10.000 euro per fare questo business plan e avrei dovuto chiedere 2 milioni di euro quando a me me ne servivano 300.000 euro. Adesso Regione Lombardia, io purtroppo ho le griff bruciate perché ho dato indietro delle macchine ai leasing che non potevo più pagare. Regione Lombardia, mi chiamano a casa se voglio delle sovvenzioni dalla regione, ma non è la regione che mi chiama, sono queste consulting. Dico io, caro Tremonti, perché non le togli di mezzo? Perché non istituisci, come in Germania, come in Svizzera, uno sportello presso la regione, il comune, la provincia, gli enti preposti a dare questi soldi? Io col mio commercialista spendo 200 euro, mi faccio un business plan, lo consegno, mi dai una lista di moduli, se li merito questi soldi me li dai, se non li merito non me li dai. Allora questo... Salvatore, io la interrompo perché è stato chiarissimo nel esplicare il classico problema, un classico problema di una trappola contro la crescita della piccola impresa, che magari ha le idee, poi nell'accesso agli incentivi, parte soprattutto europea e dei fondi di cofinanziamento italiano, ecco che la trappola burocratica e ovviamente a quel punto il consulting e l'impresa privata che ci si organizza sull'efficienza del pubblico su quello, diventa una delle classiche trappole che impediscono alle imprese italiane di crescere. È chiaro che nella stretta fiscale queste imprese che sono sul limite vengono ulteriormente tartassate. San Dalmazio, tasse all'iperspazio, come dicevo all'inizio. Irene da Bologna, prego Irene. Buongiorno dottor Giannino, io riprendevo quello che diceva anche il suo ospite e che diceva lei in apertura relativamente, facevo un confronto tra quello che avrebbe voluto dire l'aumento dell'IRPEF, che comunque almeno avrebbe avuto un discrimine perché sarebbe stato applicato su redditi di un certo tipo, certo non ricchi, ma comunque ci sarebbe stato un discrimine. Con l'aumento dell'IVA si colpisce ad alzo zero chiunque e chiaramente ne soffrono i redditi più bassi, quindi secondo me è veramente peggiore come scelta, perché non è una scelta, è proprio un fare cassa brutalmente e in modo molto miope. E quindi lei avrebbe preferito a quel punto che comunque le aliquote, quelle più elevate dell'IRP, si toccassero, perché dice così è più evidente che anche sui redditi delle persone fisiche c'è la compartecipazione. È ovvio che anche lì c'è l'obiezione che si tartassa di più chi già paga rispetto a chi non paga, però io capisco anche chi ha questo punto di vista come quello di Irene. Grazie Valdimiro dalla provincia di Arezzo, prego Valdimiro, mi sembra di conoscerla dal nome. Buongiorno Oscar, sì sono io. Senta, io non sono d'accordo sulla manovra, anche se sono uno di quelli che pagherà e non reclamo perché pago. Mi spiego, il debito è di tutti, l'abbiamo contribuito in proporzione a crearlo tutti e dobbiamo pagarlo tutti. Quindi per me sarebbe stato molto più semplice e molto più equo mettere una tassa del 3% sui redditi da 1.000 euro in su, ok, per che tutti dobbiamo ripagare questo debito che abbiamo creato. Poi per quanto riguarda la tracciabilità, si permette, anche in questo caso non sono completamente d'accordo con lei, perché 1.000 euro tanto vale non mettere niente. O mettevamo una tracciabilità sui 300-300 euro, di modo che da avere veramente una tracciabilità, ma 1.000 euro non servono a niente. Lei cosa... Io penso che rispetto ai 2005 è un ulteriore passo. Io poi sotto difendo la libertà degli individui e capisco Valdemiro che ha un'altra impostazione. Io, lo Stato che decide tutto su come io pago e diffida dei contanti stampigliati dagli stati, non da me e non da lei, devo ammettere, mi sembra una maniera per introdurre Orwell in ogni nostro tipo di transazione. Chi propone 100 euro e 300 euro, quindi significa avere tracciabilità per tutto. Allora abbattiamo gli intermediari, tanto per cominciare, non voglio pagare un solo euro, però abolire la carta moneta significa lo Stato che viene meno alla fiducia in una sua, la prima classica espressione di fiducia, che sono i biglietti monetari, e a quel punto decide che mi deve contare ogni cosa. So che su questo siamo divisi, ma io la penso così. Guido da Chiasso, come la si vede a Chiasso? Si vive bene, si vive male, nel senso che è un paese che risente parecchio della crisi italiana. Io volevo fare appunto un rapido intervento. Io sono un meridionale, sono un ingegnere che è emigrato dal profondo sud e si è trasferito a Chiasso appunto per necessità dettate dal sistema fiscale italiano, che era una morsa praticamente assurda, assoluta, e dal sistema previdenziale. Ho visto un tipo di meccanismo che mi lascia veramente perplesso che anche questo governo non abbia messo sulle mani, che dove praticamente una serie di famiglie anche abbastanza numerose percepisce pensioni pro capite molto alte, perché erano ex colonnelli dell'esercito che sono andati in pensione a 40 anni o cose di questo tipo, dove prendono per nucleo familiare, quindi i due coniugi più eventuali figli che hanno sussidi per invalidità vera o virtuale, dove il complessivo supera i 7-8 mila euro al mese di pensioni. Io volevo chiedere come mai questo governo taglia le pensioni delle vecchiette di 20 euro, 30 euro, persone che ha la stregua della possibilità di sopravvivenza, e non tocca minimamente questi ammassi di denaro, peraltro che non sono dovuti, perché sono persone che non hanno mai pagato queste somme che percepiscono. Io dissentisco da quello che dice l'ascoltatore precedente, che dice abbiamo tutti guadagnato da questa situazione, adesso è giusto che paghiamo. Questo nucleo di persone ha dice c'è chi guadagna di più e c'è chi guadagna di meno, e quindi bisognerebbe distinguere. Vedremo Elsa Fornero cosa farà su il totale, diciamo così, delle pensioni più generose. Tenga conto che per molte categorie, tipo i militari, molti protestano per i trattamenti riservati ai militari. Io che considero che generalmente abbiamo per chi veste la divisa troppa poca considerazione, devo ricordarvi che è lo Stato che prima ha diciamo fatto un organico militare elefantiaco, secondo, poi per snellirlo ha usato anche lì prepensionamenti come si faceva per le grandi imprese, nel qual caso è ovvio che è lo Stato che si autosmentisce, per così dire, più che qualcuno che lucra. Questa è la mia esperienza e cognizione sul campo. Matteo, che ci chiama dalla provincia di Milano, come la pensa Matteo di questa manovra? Volevo aggiungere che se c'è una cosa anche che mi sconfinfera per niente, oltre all'aumento del bollo che è una mini patrimoniale sui conti bancari, e l'aumento generale delle accise che insieme alle addizionali IRPEF locali è la vera sberla che si aggiunge agli 11 miliardi dello sberlone sulla casa. Questo a me non convince per niente. Però sentiamo Matteo dalla provincia di Milano. Buongiorno, è una manovra, come ha detto lei, lacrime e sangue. Le lacrime le abbiamo viste ieri, il sangue lo tolgono noi. Io sono dipendente, ho prima e seconda casa, quindi ne subirò pienamente le conseguenze. La domanda che le volevo fare è questa: perché piuttosto che limitare l'uso dei contanti, nessun governo, nessun politico, nessuna organizzazione mette la famosa regola per cui se il dipendente o chiunque spende può detrarre o dedurre qualche cosa delle sue spese mediche, di mantenimento casa, eccetera, eccetera, ma insistono sul controllo del contante? Perché se io riesco a dedurre. Matteo, domanda chiarissima, e le do questa risposta perché è la domanda generale. Allora, per consentire la deduzione e detrazione generalizzata, dell'IVA, bisogna cambiare prospettiva. L'IVA nel nostro ordinamento non è un'imposta generale sui consumi, è un'imposta sul valore aggiunto, e allora ha un senso che a detrarre e dedurla sia chi usa acquisti intermedi, cioè forniture, per poi sopra metterci valore aggiunto che serve nel bene e servizio che offre lui come professionista, microimprenditore, ma maxi impresa, poi al mercato finale. Questa è l'imposta sul valore aggiunto, per questo a detrarla sono solo le persone giuridiche nel nostro ordinamento. Se vogliamo trasferirla in quello che dice lei, cioè un'imposta generale sui consumi, capisco che la differenza può apparire labile, ma non lo è, e a quel punto considera tutte le detrazioni, noi dovremmo fare la grande scelta, a cui sarei ferocemente favorevole, di abbattere le aliquote sul reddito e puntare tutto invece sui consumi. E non è vero che l'imposta sui consumi a quel punto è regressiva, perché lo si può fare con diversi livelli di detrazione e deduzione paragonati, proporzionati al reddito. Quello io sarei favorevolissimo. Quello che non si può fare è contemporaneamente alzare le imposte sull'aliquota personale, alzare l'aliquota generale sull'IVA, alzare le imposte su bolli, accise, eccetera eccetera. Questo che si continua a fare, e l'impostazione e ragioneria generale dello Stato, e lo dico con rispetto per loro, ma per capirci, l'impostazione inerziale si prende dove c'è, e in un paese con questo livello di pressione fiscale antitetico a ogni possibilità A di crescita, B di diminuzione del debito pubblico, e lo Stato continua a non cedere il suo. Questo continua a dire, io penso che il governo precedente non avesse più titolo per stare in piedi, cioè ha compromesso in Europa e purtroppo non era incapace di intervenire. L'ho detto e non mi rimangio tutto, però i limiti di questa impostazione mi appaiono rievidenti, anche se penso che almeno abbiamo levato la Libia all'Europa per dire che salta per colpa nostra. Parte, riparte, riparte di End of Doors, però intanto la borsa sta andando da 2,4-2,7% in più come saluto al decreto salva Italia del professor Monti. Gli spread scendono verso quota 418, 140, più di 140 punti base, inferiori al massimo che si toccò naturalmente alla fine del governo Berlusconi. Abbiamo con noi il segretario del CISL Raffaele Bonanni, gli diamo in sintesi, perché era in televisione sulla 7, il nostro giudizio. Poco ancora per la crescita, perché non c'è il riequilibrio del sistema fiscale per la crescita, anche se buone le cose per meno IRAP, ma non c'è ancora meno tassa sul lavoro come era stato chiesto da tutte le forze dell'impresa, non c'è la dismissione pubblica, l'abbattimento delle emissioni pubbliche che serve per abbattere il debito, c'è un'ulteriore stretta fiscale molto forte, non ci convince la parte, ci convince molto la parte di accelerazione pensione anzianità, ma non ci convince per niente la parte di dire sopra i 900 euro non si dà più la perequazione alle pensioni, perché in un paese che va in depressione e in recessione questo è un errore clamoroso. Ci piacciono i tagli dei costi della politica, la sberla sulla casa è molto forte, era un bene, probabilmente era un male aver levato l'ICI prima casa, ma certo così è molto pesante, e complessivamente troppe tasse ancora su chi le pagava. Questa è la nostra sintesi, pur riconoscendo che il governo Monti ha un grande compito per il governo precedente che ci ha levato dall'Europa. Il segretario della CISL che ne pensa? Ma io condivido molto questa valutazione, ma prima di ogni altra valutazione io ho molto da dire sul fatto che il governo ha scelto di non fare un confronto serrato, di non trattare, e questo occorre per tutti, perché se bisogna fare delle scelte molto molto forti, e bisogna rendere conto anche alla gente di quello che si fa, e aprire una discussione significa anche trovare le giuste soluzioni e il giusto equilibrio, uno perché a quel punto si riesce a fare una cosa più equilibrata, più attenta alle situazioni, due perché ci sarà qualcuno che dovrà andare a spiegare alla gente cosa è successo. Se si è commissariato la politica non bisogna commissariare il sociale, o comunque il sociale, e sia chiaro, non si farà commissariare, perché abbiamo radici profonde e larghe nella società italiana e non vogliamo rinunciare al nostro ruolo. Io ci ho capito in questa storia che qualcuno non ha voluto la trattativa, non solo il governo ha subito una richiesta di non trattare, per evitare appunto che ciascuno si possa prendere le responsabilità. Io so che mi devo prendere, diciamo, che gliel'hanno scritta sul Corriere della Sera anche ieri mattina, ha detto: tu le parti sociali non le devi incontrare, quelli sono gli intorbidi interessi, i professori. No, ci sono anche in realtà pezzi di sociali di politica che preferiscono la solita sceneggiata, un po' di protesta e finito. Invece per me la cosa più importante è discutere, trovare le soluzioni più idonee e più equilibrate, e in modo tale che la gente abbia il senso di quello che accade, perché io non nego che se ci troviamo in una situazione gravissima e se non si dovesse intervenire, i pesi per noi sarebbero perfino maggiori, però l'equità, come ha detto Monti al suo primo discorso al Senato, l'equità deve essere visibile, e non mi pare che ci sia stata equità, perché se tu chiedi a solo alcuni, cioè quelli degli anni 50, li costruisci un carico non reggibile di un incrocio tra il passaggio da retributivo al contributivo, allo stesso tempo l'innalzamento forte, dentro questo gruppo ci sono le donne che sono addirittura più svantaggiate degli altri, cioè diventa una soluzione davvero ingestibile. E se prima di questo non si dà l'idea che a pagare almeno siano quelli che hanno di più, non si è voluto fare patrimoniale, non si è voluto fare niente, non si sono toccati i costi delle amministrazioni, lascia perdere questa storia dalla provincia e così via, non ci si è posto il problema, non ci si pone il problema per esempio di come smaltire i beni demaniali, esatto. Non c'è un disegno più largo. Questo su questo c'è una forte delusione, lo condivido integralmente. Le posso chiedere, Moreno, a questo punto il sindacato... Anche perché dovrebbero saperlo molto più di me. Cioè, noi abbiamo quasi 2.000 miliardi di euro di debiti. Allora, cioè è una mission impossible. Ma certo, levare solo a chi bisogna pagare, ma non c'è dubbio, sono d'accordo. Quindi dimezzarlo non significa attendere altri 20 anni, esatto. O lo dimezziamo grandemente, almeno di 500-600 miliardi, o altrimenti diventa una missione insostenibile, non c'è dubbio. L'unico modo è allineare subito i beni demaniali e arrivare subito a decisioni sulle municipalizzate. Esatto. Senta, che fa il sindacato se adesso? Se non si fa questo, noi è come se facessimo una corsa senza mai arrivare al traguardo. Il sindacato e la CISL cominciano a dire, che fa di fronte a questa manovra, secondo lei? Noi faremo proteste in tutta Italia e chiederemo alleanze, faremo pressioni continue. Noi la UIL tra qualche ora faremo una conferenza stampa dove chiederemo ai nostri iscritti, militanti e così via di dare il via a una serie di proteste che devono durare fino all'epilogo di questa storia. Allora io saluto e ringrazio Raffaele Bonanni, continueremo anche domani a sentire sindacati e voci di tutte le imprese sulla manovra. A domani, Rina Generale Radio.